Siamo gli antifascisti e le antifasciste di Milano. Oggi vogliamo ricordare Dax, militante antifascista ucciso ormai 19 anni fa da tre neofascisti del quartiere ticinese. La sera del 16 marzo 2003, Davide Cesare, Dax, viene ucciso con svariate coltellate da tre simpatizzanti neofascisti. Gli amici che si trovavano con lui al Tiputa, birreria in via Brioschi, subiscono diversi fendenti anche loro. Per fortuna si salveranno. Quella notte, amici solidali accorsi al San Paolo per assistere Dax saranno picchiati brutalmente da polizia e carabinieri accorsi in numero spropositato. Nei giorni e nelle settimane successivi, i giornali e la magistratura racconteranno la vicenda come una rissa tra disperati, derubricando di fatto un'aggressione politica a un litigio di strada qualunque, uccidendo così Davide una seconda volta. Quasi 20 anni dopo siamo ancora qui a ricordarlo, a ribadire che il fascismo e i fascismi esistono ancora e che finché sarà così saremo nelle strade a combatterli. Vogliamo però riattualizzare la sua memoria, affiancandola alle tante, troppe vittime sui luoghi del lavoro. Ad Adil, morto durante un picchetto investito da un camion. A Lorenzo, schiacciato da una trave d'acciaio e morto a 18 anni mentre era sfruttato in un cantiere invece di essere a scuola. A Giuseppe, anche lui 18enne, deceduto per un incidente stradale mentre tornava da lavoro. Entrambi morti grazie a quel meccanismo malato chiamato alternanza scuola-lavoro, che altro non è se non sfruttamento raccontato come formazione. Ai migranti che ogni giorno muoiono a decine alle frontiere o nel mare, a tutte le soggettività non conformi, oppresse dal patriarcato, tanto sul luogo di lavoro quanto nella vita quotidiana. Oggi vuole quindi essere una giornata piena, larga, inclusiva, che tenga viva la memoria di Dax attraverso le lotte odierne. Vogliamo iniziare anche a prospettare il ventennale, un evento che deve essere di convergenza, una convergenza di tutte quelle lotte e istanze che compongono la resistenza moderna, che denunci quindi tutte le ingiustizie che in questo modo esistono e che vogliamo distruggere, per Dax, per Lorenzo, per Adil, contro sfruttamento e padroni. Adesso lascio la parola a tutte le collettività qui presenti che vogliono portare un contributo e che vogliono aggiungere qualcosa con tutte le istanze e le lotte che oggi sono qui presenti e rappresentate. Siamo gli studenti e le studentesse della Rete Studenti Milano. Innanzitutto ringraziamo tutte le realtà che compongono l'assemblea che andrà a costruire la data del 16 marzo, importantissima anche per noi studenti e studentesse, e abbiamo voluto portare un apporto anche dalla nostra prospettiva. Sono state nominate le morti di Lorenzo e Giuseppe, 18enne e 16enne, morti durante l'alternanza scuola-lavoro. Un'alternanza scuola-lavoro che continua a non rispettare il modello di scuola che chiediamo ormai da decenni, continua ad essere decisa da politicanti e istituzioni che sono ben distanti dalla nostra visione delle cose e da come vorremmo che la scuola, insomma, costruisse il nostro futuro. È da decenni che ci mobilitiamo in questo senso, da quando con la riforma della buona scuola è stata introdotta l'alternanza scuola-lavoro, è sempre stata comunque contestata da noi studenti e studentesse e nessuno ci ha mai ascoltato. Sono serviti 2 morti per farci ascoltare in questo senso. Questo si ricollega chiaramente a un discorso più ampio che sarebbe ottuso non citare. Oltre a un modello di scuola che ci uccide, abbiamo anche un modello di lavoro che ci uccide e unirci in questa lotta è per noi fondamentale. In Italia ci sono 4 morti sul lavoro al giorno, questo è inammissibile, inaccettabile, e dal nostro punto di vista studentesco vogliamo comunque andare a sottolineare questa che chiamerei una strage, perché comunque dovremmo essere inseriti anche noi nel mondo del lavoro. La scuola di adesso dovrebbe aiutarci ad essere cittadini e cittadine di un futuro, insomma, che per noi però non è così prospero, non è così promettente, diciamo, se questa è la realtà che ci ritroviamo adesso, se dobbiamo andare sul lavoro per andare a morire. Ma non bastavano le morti sul lavoro, hanno dovuto introdurre le morti anche sull'alternanza scuola-lavoro e insieme a questo molte altre riforme che il mondo istituzionale continua a portare avanti. Il ministro Bianchi continua a portare avanti una politica di scuola che non è conforme al nostro modello e a quello che pensiamo noi. Non ci costruisce un pensiero critico, non ci costruisce un criterio, ci formano con nozioni sterili che non vanno a formare personalità, insomma, in qualche modo indipendenti. E Niente, appunto, questo è l'apporto che volevamo portare anche noi, perché ci sembra comunque importante coniugare le lotte della scuola a quelle del mondo del lavoro. È un imperativo per noi farlo, e continueremo a farlo anche e soprattutto dopo le morti di Adil, Lorenzo e Giuseppe. Grazie. Ciao a tutti e tutte, io faccio parte dell'Assemblea Azione Antifascista Milano e Galipet, e quest'anno, come l'anno scorso, come gli scorsi anni, scenderemo in piazza il 16 di marzo per ricordare Dax e per ricordare le lame dei fascisti, la connivenza della polizia per i fatti del San Paolo, ma soprattutto per ricordarci, per ribadire che l'antifascismo è una pratica che va portata avanti nel quotidiano, è una pratica militante che va rinnovata, perché i fascisti sono ancora ben visibili nelle nostre città, li vediamo fuori dalle scuole, li vediamo per strada con iniziative, presidi, cortei, li vediamo con le sedi che sono presenti nei nostri quartieri e in moltissime città italiane, li vediamo con le decine di enti, associazioni, organizzazioni, farlocche che fondano per coprirsi una faccia, ma insinuarsi all'interno appunto delle nostre città. E quello che noi pensiamo è che questa presenza vada arginata in prima persona, organizzandosi come realtà e cercando di, appunto, di mettersi in prima persona ad arginare l'avanzata delle destre. Pensiamo che i fascisti non siano solo Casa Pound, Forza Nuova, quelle organizzazioni che si vedono in piazza con le teste rasate, coi bomber, ma il fascismo ha anche un lato istituzionale che, nel senso, negli ultimi anni è sempre più evidente. Partiti come Fratelli d'Italia, come la Lega Nord, per noi sono al pari di Casa Pound, ma anche i fatti lo dimostrano. Nel 2014 la Lega Nord con Salvini, durante la campagna elettorale, si è presentata più volte in piazza con Casa Pound. La Lega Nord è un partito che non si fa problemi ad avere tra le proprie fila personaggi come Max Bastoni o Stefano Pavesi, membri di Lealtazione. E Fratelli d'Italia, vabbè, cioè non c'è neanche bisogno di dirlo, è il partito erede dell'MSI. Ecco, quindi la presenza dei fascisti anche proprio nelle istituzioni del nostro paese, quindi crediamo che la risposta vada data su un altro piano che non sia quello appunto istituzionale. In un contesto come questo, fra pochi mesi, in teoria il 9 aprile dovrebbe esserci forse la sentenza per un nostro compagno che è accusato di strage per un attacco ad una sede della Lega Nord a Treviso, avvenuto nel 2019. Ecco, Juan, questo nostro compagno, è stato arrestato dopo più di due anni di latitanza, perché già si stava sottraendo a delle condanne divenute definitive per la lotta No TAV. È stato arrestato e in carcere da più di due anni. E noi vogliamo esprimere completa solidarietà al compagno, ma al di là della vicenda specifica, soffermarci su quello che sta avvenendo quando uno Stato che ammazza quotidianamente, che è davvero fautore di stragi, da quelle che avvengono nel mondo del lavoro, dagli ultimi due morti in alternanza, ma basti pensare agli ultimi due anni di pandemia, a quello che è avvenuto all'interno delle carceri italiane nel marzo del 2020. Ecco, uno Stato che ogni giorno davvero si qualifica come stragista, adesso accusa un compagno di strage per aver avuto il coraggio e la determinazione di attaccare i diretti responsabili della miseria, dello schifo di questo presente. E quindi noi saremo anche in piazza per portare solidarietà a Juan, ma non solo. Settimana scorsa in Trentino c'è stata un'altra operazione repressiva. Lo stesso compagno è stato accusato di un altro fatto, di un attacco avvenuto nel 2014 al Tribunale di Sorveglianza di Trento. Un altro compagno è stato messo ai domiciliari per una tentata irruzione all'interno di una radio dove voleva portare solidarietà ai rivoltosi che appunto nel marzo 2020 all'interno delle carceri italiane hanno provato a dare una risposta alla gestione indegna che si è registrata della pandemia, e altri due compagni hanno l'obbligo di dimora. Quindi in solidarietà a questi compagni, per rilanciare le lotte, saremo in piazza il 16 di marzo. Ciao a tutte e tutti, sono qui a portare il contributo del CSA Baronda di Segrate. Come sempre, come ogni anno, ci riuniamo e ci organizziamo per fare in modo che la memoria di Dax viva nella città come vive ogni giorno nei nostri cuori e nelle lotte che portiamo avanti. Per questo, tutti insieme abbiamo deciso di dedicare queste giornate anche a coloro che vengono sfruttati tutti i giorni sul posto di lavoro e a chi muore a causa di questo sfruttamento. Durante la riflessione su queste tematiche abbiamo deciso di proporre tra i campi di analisi quello degli episodi di stampo squadrista che in questi anni hanno colpito sempre più di frequente le lotte di lavoratrici e lavoratori, soprattutto nel campo della logistica, interrogandoci su come il movimento si possa porre in questo terreno di scontro, questione sicuramente ancora tutta da approfondire insieme in questi giorni e in futuro. Sono sempre di più i casi in cui la classe padronale, oltre che fare... come sempre uso delle forze del disordine, scatena contro i picchetti e gli scioperi i picchiatori della sicurezza privata, in molti casi militanti di estrema destra o suoi simpatizzanti. Fa anche qualcosa di più grave da un certo dal punto di vista della lotta di classe, cioè utilizzare alcuni lavoratori interni per aggredire quelli sindacalizzati. Riteniamo importante sottolineare che l'atteggiamento intimidatorio e violento è in reazione a queste vertenze è data dal fatto che queste vertenze stanno mettendo in difficoltà i padroni. Sicuramente l'organizzazione dell'autodifesa spetta in primo luogo a chi porta avanti queste lotte in prima linea, le lavoratrici e i lavoratori, non solo per motivi strategici, ma soprattutto per motivi politici, perché riteniamo che l'auto-organizzazione operaia sia di fondamentale importanza. Quindi ci chiediamo, noi come Solidali, come possiamo portare aiuto e sostegno a queste vertenze. Perché spesso queste lotte sono isolate territorialmente e politicamente e troppo spesso noi arriviamo in ritardo. Per questo al movimento che avvolge queste lotte, con la sua solidarietà, spetta un compito centrale. Collegare le lotte lontane dalla città con la città stessa. Legare le vertenze in lotta, essendo un megafono delle parole d'ordine e costruire una rete di mediattivismo, capace di parlare ai lavoratori di altre categorie e al movimento studentesco. Sono compiti importanti tanto quanto la solidarietà e l'aiuto materiale per il mantenimento del presidio. Il movimento può mettere a disposizione questa sua forza politica tanto quanto può mettere in campo i propri corpi nel terreno dello scontro materiale. Un lavoro comune delle realtà solidali che valorizzi queste vertenze e le aiuti ad espandersi sempre di più, un movimento che viva assemblea per assemblea come strada per strada, giorno per giorno, con Dax, Adil, Lorenzo e Giuseppe nel cuore di chi lotta. Ciao a tutti e tutte, io porto il contributo del collettivo Cachavit e vorrei parlarvi di un libro che abbiamo scritto. Non è importante adesso il libro, fare pubblicità al libro, chi se ne frega, sappiamo come chi è stato, si chiama. E perché abbiamo scritto questo libro qua? Questo penso che sia molto importante, perché un anno fa lavoravamo in questo archivio politico e a un certo punto ci accorgiamo che c'è un fenomeno molto incidente. Un sacco di persone muoiono per mano dello Stato in delle situazioni che sono veramente imbarazzanti, cioè parliamo per strada, parliamo ai blocchi stradali, parliamo al ragazzo e alla ragazza che si sono fermati in macchina per stare un po' insieme e lo sbirro gli spara perché, non lo so, forse gli è anche girata una storta, io non lo so neanche perché gli spara, cioè in sostanza è a un certo punto ci accorgiamo che più di 600 persone all'anno muoiono per mano dello Stato senza aver commesso assolutamente nessun tipo di reato, senza aver neanche dato la possibilità di pensare che ci fosse una giustizia in questa morte. E appunto queste persone, queste 600 persone all'anno muoiono per strada, muoiono nelle carceri, muoiono ai blocchi stradali. E quello che vorrei un po' dire oggi è, senza assolutamente togliere, anzi con estremo rispetto a Dax e tutte i morti che noi ricordiamo, i morti politici, però secondo me quello che sarebbe bello che oggi ricordassimo è quello che un po' stiamo scrivendo sul muro qua di fianco, dare un nome e un'importanza a tutte le morti per mano dello Stato, non soltanto quelle politiche, non soltanto quelle che hanno una rete dietro che può ricordarle una volta all'anno, ma quelle che non hanno un nome, quelle che non hanno una faccia, quelle che nessuno si ricorda perché lo stesso Stato poi non le rivendica, perché poi lo stesso Stato non le fa passare per i giornali, non le fa passare per i mass media, e o c'è qualcuno di noi, qualcuno di noi che con coraggio si mette a studiare, a cercarle e a ridargli un senso e un rispetto, altrimenti sono persone che passeranno dimenticate nella storia. E forse è giusto quello che stiamo scrivendo ed è giusto ricordarlo ogni giorno, non solo all'anniversario della morte di Dax. Non possiamo morire, non possiamo versare il nostro sangue per il profitto di pochi, per il profitto dei potenti. Grazie. Poi se vi va di comprare il libro si chiama Sappiamo chi è stato. Ciao a tutte e tutti, noi siamo il collettivo ZAM e a 19 anni dalla morte di Dax, ucciso per mano fascista, vogliamo ricordare la sua lotta in vita contro un sistema capitalista e patriarcale che ci vuole tutti oppresse, dalla scuola al lavoro, dalla sfera pubblica a quella privata. Le discriminazioni attuate per dividerci e sottometterci sono molteplici e passano attraverso la classe, l'etnia e il genere, ma non solo, l'orientamento sessuale, l'abilità o la disabilità. Da secoli ormai il lavoro di cura nello specifico viene demandato senza possibilità di vera scelta alle donne, sulla base di una predisposizione considerata naturale, che altro non è che un costrutto della società patriarcale. In quanto esseri umani identificati come accoglienti verso l'altro perché generatrici di vita, le donne vengono relegate al ruolo di madri, figlie, sorelle, già all'interno delle proprie famiglie, intese anche queste come unico nucleo in cui la cura può verificarsi, per far crescere coloro che invece hanno il naturale compito di produrre profitto, ovvero gli uomini, la forza lavoro. Nella divisione sessuale del lavoro che caratterizza la nostra cultura, il lavoro di cura è stato considerato naturale e quindi al di fuori della storia e della politica. In realtà non è stato considerato vero lavoro e forse ancora per molti oggi non lo è. Questa svalutazione di attività imprescindibili per la continuazione della vita stessa è rispecchiata nella considerazione sociale e nel valore economico, attribuito al lavoro di cura anche al di fuori della famiglia. Pensiamo quindi ai bassi salari del personale che si occupa delle persone non autosufficienti nelle strutture ospedaliere o residenziali. La migrazione provocata dal neocolonialismo e dal neoliberismo verso i paesi occidentali ha fornito una nuova forza lavoro colmando i vuoti di un welfare state sempre più smantellato, ma ha anche garantito la sopravvivenza di un modello di relazioni umane, economiche e sociali basato sulla divisione sessuale del lavoro. Le donne quindi sono entrate in massa nel mondo del lavoro salariato e tentano con tenacia di restarci, ma nel frattempo gli uomini non sono entrati in massa nel lavoro di cura e cercano con tenacia di tenersene alla larga. In una società che invecchia e in mancanza di politiche pubbliche che mettono al centro la cura, è alla forza lavoro immigrata che si attinge, quella più bisognosa e ricattabile, perché con meno diritti. Le donne migranti subiscono quindi una doppia oppressione, in quanto donne, in quanto razzializzate, sfruttate, spesso sottopagate. Anche gli uomini immigrati sono massicciamente impiegati nel settore della cura. In questo quadro la maternità dovrebbe essere una possibilità per tutte le donne, supportata anche economicamente. Invece viviamo una condizione dualistica e opposta. Da un lato la maternità viene sottilmente imposta come un percorso naturale della vita di coppia o dell'orologio biologico. Dall'altro, nella pratica, in Italia una donna su tre mediamente si trova di fronte a una scelta allucinante: se diventare madre o conservare il posto di lavoro, non solo come sussistenza economica, ma anche come arricchimento della comunità. In ogni caso, la reale volontà e i desideri non sono difficilmente presi in considerazione. Nel denunciare quindi un sistema di potere capitalista e patriarcale, vogliamo anche essere coscienti delle complicità che garantiscono la sopravvivenza stessa del sistema. Crediamo quindi sia importante partecipare il 16 marzo al corteo di Dax, dedicato anche a tutte le morti sul lavoro, oltre che superare l'8 marzo, per rivendicare il diritto a poter scegliere se e quando lavorare, il diritto a scegliere se e quando avere figli, il diritto a scegliere di essere se stesse e poter autodeterminare i nostri corpi, il diritto a scegliere. 8 marzo, sciopero globale, sciopero per tutte e tutti. Corteo ore 18 in piazza Duca d'Aosta. Ciao a tutte e a tutti, vi porto i saluti e il contributo della FO Boccaccio di Monza, spazio occupato dal 2003 e per cui con la ricorrenza del 16 marzo il nostro è un legame affettivo e politico particolare, perché coincide più o meno con la nascita anche della nostra esperienza di occupazione. E in questa annata che ci porta un po' a riflettere già sul ventennale, la cosa che abbiamo ritenuto più importante era quella di costruire a Monza e nelle tappe di avvicinamento delle occasioni che permettessero ai nuovi compagni, alle nuove compagne che stanno frequentando il nostro spazio, dei momenti di ricostruzione di quella che è stata la vicenda della Notte Nera e di ricostruzione di quella che è stato anche questo lungo percorso che tutti gli anni ci porta insieme a costruire momenti come questi e la piazza del 16. In questo senso noi viviamo l'attraversamento di una nuova occupazione dopo lo sgombero di luglio, e nella giornata di domani abbiamo costruito un'iniziativa simile a quella che stiamo vivendo qua oggi, con la realizzazione di un grosso murales per Dax proprio all'interno degli nuovi spazi di Via Timavo. Per quanto ci riguarda, la cosa importante è riuscire a trasmettere l'importanza di essere in piazza il 16 e di proiettarci in questo ventennale sempre in una dimensione aperta e condivisa per quelle che sono le componenti del movimento antifascista milanese. E la valutazione che diamo di quello che è stato questo 2022 è positiva, perché se guardiamo al cartellone delle iniziative di avvicinamento, alla capacità anche quest'anno di declinare il tema in maniera specifica, così come è stato in tutte le annate precedenti, ci dà un po' la misura di come tutte le collettività, le individualità abbiano saputo accogliere lo stimolo che a partire dall'anno scorso l'associazione Dax ha lanciato alle componenti di movimenti per raccogliere l'eredità della costruzione del 16 e saperla declinare in maniera collettiva. Per cui noi guardiamo con fiducia sia la piazza di quest'anno, che speriamo sia veramente partecipatissima, sia al presidio che al corteo successivo, ma soprattutto alla costruzione del ventennale, che in qualche misura possa riportare alla memoria la capacità che abbiamo avuto nel 2013 di costruire un allargamento nazionale e far sì che Milano, insomma, nella giornata del 16 del prossimo anno sappia ospitare una grandissima manifestazione. Grazie a tutti e a tutte. Ciao a tutti e a tutte, noi come realtà di rugby dal basso e di sport autogestito, insomma, volevamo dire due cose. Stiamo partecipando all'assemblea di Dax e noi come realtà siamo figli e figlie di una realtà precedente che si chiamava Stella Nera, che appunto si auto-organizzava e si allenava in uno spazio occupato al Boccaccio. La prima iniziativa l'abbiamo fatta l'anno scorso al Boccaccio, appunto in solidarietà, perché lo spazio era sotto sgombero e, come ha detto il compagno prima, il posto è stato sgomberato a luglio. E niente, la tematica che volevamo portare e rilanciare sia nel momento del corteo e anche con la giornata di sport popolare che faremo il 19 marzo è quella di un'opposizione agli sgomberi. Molti di noi, molte di noi vivono all'interno delle case occupate e in questo momento la situazione sta sicuramente degenerando. Ci sono sgomberi in maniera settimanale nei quartieri che viviamo, attraversiamo, in Corvetto, in Ticinese, ma anche in zona nord, zona via Celentano, via Padova, eccetera. E tutto questo è legato alla gentrificazione e alla riqualificazione che i padroni e i potenti vogliono insomma creare a Milano e vogliono cercare di spostare i poveri sempre più fuori dalle periferie e cercare di far diventare le periferie un altro centro pettinato. L'esempio lampante è di come la presenza di Fondazione Prada in Corvetto stia modificando da anni la composizione del quartiere. Il 19 marzo proveremo a fare una giornata di sport popolare, oltre a noi del rugby ci saranno anche altre realtà di sport che si auto-organizzano, calcio, basket, ci saranno dei ragazzi e delle ragazze che faranno skate, ci sarà il coordinamento delle palestre popolari per quanto riguarda la box, ci sarà anche un torneo di pallavolo e in quella giornata vorremmo rilanciare insomma una modalità differente di attraversare gli spazi che ci levano per poterci allenare e poter portare avanti lo sport in una maniera autogestita. Quindi vi invitiamo tutte e tutti a partecipare alla giornata di sport popolare il 19, ma soprattutto alla giornata del 16 marzo con il concentramento alle 20 in Brioschi. Ciao a tutti e a tutte, volevo portare il contributo come abitante delle case popolari del quadrilatero via Gola, via Pichi e come compagno antifascista dell'assemblea della sanatoria. E, nulla, volevamo invitarvi tutti e tutte il 16 marzo a mezzogiorno dove verrà riposizionata una corona in via Gola 7 dove abitava Davide e perché tutti gli anni insomma facciamo questo appuntamento per ricordare appunto Davide come nostro compagno abitante delle case che lottava per il diritto alla casa. Per cui niente, è tutto qua, verrà anche stato uno striscione per ricordarlo. Come qualcuno di voi già sa, lì c'è anche una targa in metallo fatta da noi, diciamo, al decennale, e ci sarà questa corona dedicata a lui. Questo perché comunque vogliamo che resti nella memoria che Davide era un nostro compagno delle case, come dicevo, e lottava per il diritto alla casa, perché vogliamo che questa cosa sia ben chiara in testa anche ai compagni più giovani. Come diceva anche Pasqua prima, il quartiere è uno dei quartieri dove a nostro avviso ci sono delle occupazioni di case probabilmente le più longeve in Europa in questo momento e per cui vanno difese, ecco, per cui vanno difese con la lotta per la casa. Noi come abitanti dell'Assemblea della Sanatoria, come è già chiaro, lottiamo per avere la casa. Quindi siete tutti invitati a mezzogiorno, 16 marzo. Grazie. Un paio di cose giusto per integrare anche gli interventi precedenti al mio. Come ogni anno il 16 marzo a noi piace e crediamo giusto ricordare Davide come compagno interno alle lotte alle quali che abbiamo condiviso insieme e che comunque continuano con l'idea di ricordarlo appunto come parte interno ancora alle lotte che noi portiamo avanti. Per cui rispetto al quartiere dove anche lui abitava, da quest'estate abbiamo formato, costituito un'assemblea di lotta per la sanatoria che ha come obiettivo di rilanciare la questione dell'abitare in città, a partire da questo quartiere, dal quartiere ticinese, dove più forte e incisiva è stata la lotta per la casa e tuttora il quartiere, nonostante gli attacchi repressivi fatti di sgomberi, denunce e quant'altro, è ancora abbastanza determinato a rivendicare il diritto alla casa e a conquistarlo attraverso appunto una sanatoria che andrebbe a sancire il fatto che attraverso la lotta si può conquistare un diritto negato. Per cui il 16 marzo porteremo questi contenuti all'interno di quella giornata e non solo. L'antifascismo e l'antirazzismo, che mai come in questo periodo è necessario praticarlo attraverso lotte concrete che vanno di fatto a rompere quel meccanismo di discriminazione e di sfruttamento che c'è specialmente nei confronti di chi proviene da altri posti del mondo. In queste settimane ci sono stati in questo quartiere non solo diversi sgomberi. Noi crediamo che agli sgomberi e alla repressione in generale la risposta sia rilanciare dal punto di vista delle lotte, per cui in quartiere oggi, in concomitanza con questa assemblea, c'è stata un'iniziativa dall'ora di pranzo e adesso c'è una sfilata per i bambini per carnevale. Dall'ora di pranzo, dicevo, ci siamo ritrovati per ribadire che la casa è un diritto e che la lotta è la modalità e lo strumento con la quale ottenerla. La solidarietà è un aspetto fondamentale, è un'arma molto importante da usare sempre. A questo proposito vorrei invitarvi. Il 9 marzo si apre un processo a carico di 7 compagni che nel luglio del 2012 portarono solidarietà a delle famiglie di Via Nera che venivano sgomberate. Per quell'opposizione a quello sfratto sono stati denunciati appunto in 7 e il 9 marzo inizierà il processo. Sono accusati di resistenza aggravata a pubblico ufficiale. Noi eravamo tutti presenti e possiamo dire che la violenza è stata esclusivamente da parte della polizia e i compagni giustamente hanno portato solidarietà a chi veniva sgomberato. Comunque vi invitiamo a portare la solidarietà ai compagni processati mercoledì 9 dalle ore 9:30 davanti al tribunale. Ciao a tutte e a tutti, come compagni e compagne dell'associazione DAX ci tenevamo molto per prima cosa a ringraziare l'assemblea che in questi mesi ha costruito l'anniversario, un'assemblea a cui non abbiamo partecipato in modo attivo ma che abbiamo seguito nell'evoluzione del calendario di iniziative e dell'impegno insomma, che è stato messo per la giornata del 16. Non l'abbiamo seguito direttamente proprio perché abbiamo voluto lasciare spazio alle realtà, alle nuove generazioni, perché la storia di DAX deve essere una storia che continua al di là di chi l'ha vissuta personalmente, per cui l'impegno e la partecipazione, la responsabilizzazione dei giovani e delle realtà che sono attive sulla città quotidianamente era per noi importante e abbiamo visto con grande soddisfazione che effettivamente questo impegno ha portato a una ricchezza in termini di iniziative, di contenuti, e siamo quindi molto grati a tutto questo impegno che c'è stato. Soprattutto pensiamo appunto che la storia di Dax, la storia del 16 marzo, debba far parte della memoria della nostra città, e lo debba essere non in termini di commemorazione, non in termini di vittimismo, ma in termini di rivendicazione politica, per ribadire i valori dell'antifascismo e dell'anticapitalismo che ci contraddistinguono come comunità politica, una comunità comunque plurale, perché anche la partecipazione di diverse realtà, di diverse aree politiche, è sempre stato un elemento forte nel ricordo di Dax, e il 16 marzo appunto diventi e continui a essere una data importante anche di ricomposizione e di ricordo, ma anche di rilancio di contenuti, di battaglie, e il fatto appunto anche quest'anno che la memoria di Dax si associ al ricordo di tutte le morti sul lavoro, e anche poi con gli ultimi eventi, le ultime questioni relative alla guerra, diciamo che lo slogan che si riporta su questo muro potrebbe tranquillamente essere riferito anche al conflitto che in realtà è in corso da tanti anni nel territorio ucraino. Per cui ci vedremo tutti in piazza il 16 marzo con sempre una spinta a rilanciare le lotte che Dax ha portato avanti e che portiamo avanti anche noi dopo 20 anni con lo stesso orgoglio e la stessa passione. Grazie. Da adesso il microfono rimarrà aperto per eventuali altri contributi. Rilanciamo comunque l'intento di voler costruire un ventennale che sia un momento di massa, di convergenza delle lotte, di convergenza delle realtà, e che sia soprattutto un momento significativo per questa città e per la lotta di Dax, che deve diventare, deve continuare a essere e deve diventare ancora di più un patrimonio comune, per dire che finché ci saranno i fascisti, ci saranno gli antifascisti nelle strade a combatterli. Viva Dax, libero e ribelle!